A volte ci domandiamo qual è il profumo dei nostri sentimenti dopo che abbiamo smesso di amare. Cosa resta dietro a un'emozione vuota? Parole nude di colori, dietro a immagini senza un pittore. Cosa resta dentro a una bugia? Visi che fingono sorrisi tra promesse vestite di vero. Cosa resta di quella sensazione? Vivere dentro un respiro che ti ha fatto dire son vivo. Tutto quello che è stato rimane solo un'orma sul selciato. Di tutto quello che è stato rimane solo un'orma sul selciato. Cosa resta quando ti ritrovi solo davanti a un finestrino e i pensieri fuggono lontano? Cosa resta di tutte le persone, quelle che hai incontrato e negli sguardi che hai donato? Cosa resta di un grande vecchio amore? Emozioni ormai lontane in quel nulla che rimane. Di tutto quello che è stato rimane solo un'orma sul selciato. Di tutto quello che è stato rimane solo un'orma sul selciato. Di tutto quello che è stato rimane solo un'orma sul selciato. Di tutto quello che è stato rimane solo un'orma sul selciato.